ritrovati, ben ritrovate in diretta, ovviamente, una nuova puntata della Fuga del Gatto dopo un po' di peripezie agostane, un po' di abbandoni. In effetti vi abbiamo abbandonato nelle ultime settimane, lo dobbiamo ammettere, anche noi abbiamo ceduto all'estate e come gli altri vombati siamo andati un po' in vacanza. Ma adesso siamo tornati perché effettivamente poi è settembre, sono i primi di settembre, precisamente il 3 settembre, e 18:30 spaccate, un po' di ritardo, ma comunque abbiamo iniziato anche perché la Virgi, che mi ha appena raggiunto nella caverna del Wombat, ha avuto un po' di casini e quindi sì, iniziamo però comunque. E appunto settembre, oggi c'è anche un bel freschetto e sembra quasi l'inizio dell'autunno, ma in ogni caso fa ancora un bel caldo, purtroppo è così. E di pioggia ce n'è ancora poca, vabbè, ma non parliamo del tempo, basta, perché oggi vi dobbiamo parlarvi di insomma, una cosa, un argomento bello alto, aulico. Siamo veramente, tocchiamo delle vette di un certo spessore. Anche perché, sì, effettivamente l'anno scorso era l'anniversario, ma noi, essendo vombati poco rispettosi delle tradizioni, noi festeggiamo l'anniversario dell'Orlando Furioso, dell'Ariosto, non nel 2016, ma nel 2017, perché siamo fatti così. E ecco, è arrivata la Virgi, Ok, gli ho ci acceso il siamo. microfono, si sente Sì, meraviglia, wow. ottimo. Benissimo, e Sì. quindi l'Orlando Furioso, noi vi parliamo dell'Orlando Furioso che sì, ok, è un'opera letteraria, i più attenti di voi se ne saranno accorti, però ha dato lo spunto per tantissime composizioni, anche musicali, non da meno direi, evidentemente il tema era importante, la composizione letteraria dava il suo frutto e quindi negli secoli seguenti effettivamente ha lasciato un bel po' di tracce. Sì, ha amato molto appunto, come dicevi tu, da vari autori, qualcuno addirittura come Vivaldi ci si è proprio incaponito e ne ha fatte, come leggevo, anche insomma, più versioni. Sì, Vivaldi era C'era pazzo, proprio gli proprio piaceva. Furioso dell'Orlando. E, per cui sì, chiaramente, ovviamente si capisce perché, è un tema stimolante, soprattutto ricco di sottotrame, quindi che, no? Dà adito a tantissime possibilità. Sì. Oltre Vivaldi, insomma, ora lui è stato quello che ci si è incaponito di più, ma insomma abbiamo Haydn, giusto, se non mi sbaglio, Sì, e sì. abbiamo una versione poi Di di Handel. In Handel. realtà ci sarebbero 2000 le versioni, Chiaro. le opere tratte da tutto ciò. E c'era, ad esempio, che non vi faremo ascoltare oggi, di cui non parleremo, c'era anche Lully e Roland di Esatto. Lully, perché i francesi, che dovevano, come sapete, francesizzano tutto, anche i termini informatici. Quindi nel 700 francesizzavano anche l'Orlando, che non si chiamava Orlando, ma si chiamava Roland. La E chanson, quindi oui. sì, c'era Lully, poi c'erano altri, è stato il nostro amato Domenico Scarlatti, anche lui aveva Latte. fatto cose, insomma, ce n'era diversi, ma noi non è che potremmo fare, cioè possiamo parlarvi tutto, anche perché dovremmo fare una puntata di 6 ore e insomma, la domenica è giorno di riposo per tutti, anche per noi. Quindi vi parliamo, abbiamo scelto di in particolare questi che vi ha citato la Virgi, ovvero Vivaldi, Haydn e Handel, ma in realtà non solo loro perché vi parliamo anche dei madrigali, perché subito dopo la scrittura del poema da parte dell'Ariosto vennero scritti diversi madrigali. Ma allora, torniamo a bomba sull'Orlando Furioso, perché Alla sennò qui genesi, non non si... ci Non si si... capisce. Allora, sì, come lei mi insegna, cara Capesca. esperta, chiaramente si fa riferimento all'Orlando Furioso di Ariosto, pubblicato nel 1516 a Ferrara, che però chiaramente riprende anche la tradizione del del ciclo carolingio e in parte appunto del ciclo bretone, e si poneva appunto a continuazione dell'incompiuto Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo. Il Boiardo, il famoso Boiardo, quello che ti insegna a scuola. Il Boiardo, ecco, era qui, era questa storia qua. Quello e il sì, allora, quindi cosa fa Ariosto, come spesso fanno e hanno fatto i grandi autori? Attinge a varie linee, appunto, no? A vari cicli dei poemi cavallereschi, li rielabora e ne crea appunto quella che doveva essere poi, nasce poi come la celebrazione della nascita della casa d'Este, fondamentalmente perché, poi vedremo insomma nella sinossi dell'opera, è proprio alcuni dei personaggi danno poi vita a quelle, quindi le nobili origini della casa d'Este, no? Venivano celebrate a tratti, perché poi insomma ci sono anche dei bei lati oscuri, dei bei personaggi non proprio, ecco, non proprio Orlando stesso, insomma, non proprio cristallini. Però diciamo chiaramente, insomma, ora Ariosto era furbo e riesce a fare, insomma, a sfaccettare, però è anche chiaramente, sì, c'è, cioè, un poema che celebrava e doveva celebrare la casa d'Este, la genesi, soprattutto, cioè nobilitare le origini di questa casata. Sì, lo vedremo, cioè addirittura fa risalire a discendenze da Ettore, cioè proprio certo, perché i personaggi, appunto, poi vedremo che generano la casa d'Este secondo la leggenda. E quindi questo, cioè, nasce così chiaramente, perché i musicisti, ma non solo tutti gli artisti in generale, però poi ho fatto una insomma un'incursione in altre forme d'arte, anche lì insomma ha ispirato tantissimo, proprio perché ha appunto una varietà di trame, e soprattutto i personaggi, no, sono forse un po' per la prima volta nella storia del poema cavallereschi, non sono piatti, ma sono dei personaggi. Non a caso Calvino lo amò molto e ne fece, no, tutta la versione parafrasata molto bella delle Naudi, quella in tre parti, che poi è quella che si usa spesso nelle scuole per studiare l'Orlando, proprio perché appunto sia da un punto di vista linguistico che da un punto di vista di immaginario rimane comunque una pietra miliare, insomma un fondante, ecco, e non a caso, insomma, non è... Sì, poi lo vedremo, i personaggi sono appunto, come dicevi, non assolutamente lineari, non piatti, e anzi gli eroi sono tutt'altro che eroi classici, beh, non che gli eroi classici fossero piatti, però effettivamente, almeno nell'accezione un po' più moderna e contemporanea, l'eroe è qualcosa di molto preciso, molto bianco peraltro, insomma... E anche soltanto partendo dall'Orlando, per l'appunto, l'Orlando è furioso, è pazzo, è un personaggio che ha un po' sgrezzato, ecco, non è proprio... Sì, poi tra i primi importanti ruoli femminili, no? Cioè ruoli attivi, si dice, insomma, perfino Tolkien, la sua famosa, tra i pochi ruoli femminili belli che ha descritto, si fosse ispirato ai ruoli femminili dell'Ariosto, e si capisce anche abbastanza perché, insomma, questi cavalieri donna, no? Questi ruoli attivi femminili sono veramente qualcosa di, insomma, ecco, di pazzesco per l'epoca, e non solo, era chiaramente, insomma, si erano visti nelle fiabe, si erano visti nella tradizione popolare, fantagiro e quant'altro, però insomma questa è proprio, cioè, sono dei ruoli femminili che agiscono però in azione, in quelle che sono state definite sempre come le azioni maschili per eccellenza, appunto, sì. Il cavalierato, il combattimento. E quindi, sì, insomma, poi lo vedremo che volta... la musica non si lascia sfuggire la cosa, e anzi accentua un po' questa apparente contraddizione, insomma, questa cosa un po' strana per l'epoca, ma anche per la nostra epoca forse. E Quindi i tre temi principali, perché in realtà appunto le vicende di questi personaggi sono tutti intrecciati, come dicevamo, danno luogo un po' a questa sorta di soap opera con vari colpi di scena e escamotage narrativi anche spesso un po' azzardati, un po' buttati lì, però ci sono tre temi principali, giusto? Esatto, sì. Allora, cioè, prima di tutto c'è la guerra, la cosiddetta la guerra santa, sì, perché c'è la guerra tra saraceni e cristiani, che ne sappiamo qualcosa anche nel 2017, conclusa ovviamente con la vittoria dell'eroe cristiano. Chiaro. D'altra parte, insomma, era furbo l'Ariosto, ma proprio perché furbo non è che poteva farsi ammazzare, e quindi, insomma, è l'eroe cristiano, comunque deve vincere. Però non era proprio tutto così semplice. Insieme a questo tema c'era la vicenda amorosa in cui Angelica, l'eroina Angelica, fugge da un po' tutti i suoi spasimanti, compreso peraltro Orlando, che lei schifa un sacco. Esatto, un'altra cosa abbastanza strana questa, perché appunto, no, l'eroe principale viene rifiutato, e questa è una cosa che lo porta poi appunto alla follia, da qui l'Orlando alla furia, no? Alla perdita del senno, perché poi c'è questo tema principale molto importante, poi sarà poi uno dei topos di tutta la storia della musica e della storia dell'arte, no? La perdita del senno, la perdita della ragione e il tentativo di ritrovarla, no? Infatti vediamo andando sulla luna. Ora non voglio arrivare, insomma, troppo in là, ecco. Però, insomma, ecco, interessante proprio questo, quindi un altro accento particolare, insomma. Sì, nuovo. Infatti ha un tipo di eroismo estremo che mostra anche molti limiti, cioè sì, va bene, l'eroe cristiano, che però era fuori come un tacchino, e quindi, insomma, già l'eroismo stesso viene messo un po' in discussione in questa maniera, quindi anche tutti i valori cristiani che avevano portato alla guerra santa, in qualche maniera, anche se ovviamente non esplicitamente, ma è un bel sottotesto, sono un po' messi in crisi, diciamo. Sì, decisamente. Anche perché poi Angelica alla fine respinge Orlando, che è proprio schifa, e chi sposa il musulmano Medoro, per quindi, cui insomma. Poi non fa una bella finaccia, cioè non fa una bella fine in generale. Angelica la paga, però insomma, lei la sua scelta l'ha fatta, e non ha scelto certo Orlando. Poi, ultima cosa, quello che dicevi te, il motivo ovviamente celebrativo della Casa d'Este, e vabbè, per cui, e viene realizzato questo motivo celebrativo attraverso un'altra storia d'amore, anche questa molto con varie peripezie, che però poi alla fine porta al compimento, alla realizzazione di quest'amore tra Ruggero, che è Ruggiero, anzi. Ruggiero. Cavaliere pagano, erede appunto di Ettore, il troiano Ettore. Certo. È chiaro che fa, era bulgaro, tra l'altro, ma è evidente che viene da lì. Ora non guardiamo, per favore, sì. Il pelo. E poi sono finiti a Ferrara, ma insomma, ora la geografia è un po' così. Tanto non lo conosceva nessuno. Ma infatti. E quindi Ruggero e Bradamante, che è la guerriera cristiana, appunto guerriera, come diceva prima la Virgi, personaggio femminile molto particolare, tutt'altro che doma e remissiva donnina. Però anche qui l'unione avviene ovviamente tramite la conversione di Ruggero, perché ora non è che si poteva proprio pretendere troppo. Stiamo calmi, insomma. Ne esageriamo. Va bene tutto. Questa è veramente in estremissima sintesi un po' l'analisi dell'Orlando Furioso. D'altra parte non è che possiamo stare 6 anni a analizzare, anche perché io non lo so. L'esegesi dell'Orlando Furioso un'altra volta. Magari sì, ma io ecco, non è che c'ho bella, tutti questi mezzi. No, anch'io perché l'ho fatta all'università, se no ciao. Ecco, io al liceo, quindi buona proprio. Niente, però sì, ecco, ci sarebbero mille cose da dire. Non so se, per concludere questo intro, non so se era Calvino, no, comunque c'avevo questo, insomma, non so se questo professore citava Calvino, ma ci sono sempre che l'Orlando Furioso era come una scacchiera, no? Andava visto come una scacchiera proprio degli scacchi, proprio con i pezzi, no? Che muovendosi, i personaggi si muovevano su questa scacchiera, si incrociavano, davano vita poi, no? Attraverso le varie mosse a una serie di eventi. È così, cioè, è interessante vederlo così, proprio bello. Una scacchiera su cui si spostano tutti questi personaggi, ed è poi fondamentalmente uno dei cioè, fortemente moderno, comunque, come al di là dell'impianto classico, cavalleresco è proprio nella sua, un po' per il personaggio, come si diceva, un po' proprio per questa struttura, non a caso poi appunto ha ispirato, ha influenzato, ma non solo musicisti, artisti, sceneggiatori, scrittori, registi, insomma, perché... E poi ci sono un sacco, questo è interessante, un sacco di piccoli particolari bellissimi, come quasi profetici di un futuro, c'è cioè questa cosa sulle ali, la prima volta che compare un'arma da fuoco nella letteratura, no? Le prime armi con le polveri compare nell'Orlando Furioso, che poi viene buttata a mare e si dice non dovrà mai essere ripresa per l'umanità futura. No, è interessante, ci sono queste proprio buffe, queste incursioni proprio futuristiche quasi. Beh sì, senza contare appunto il viaggio sulla Luna, il primo viaggio sulla Luna potremmo dire. Esatto. Eh sì. E quindi insomma ecco. Ah, quanto è stato importante. Ah, quante, quindi, che ne sapeva lui. Beh, poi ha ispirato anche la nostra puntata, quindi insomma cara lei. Sì, molto importante. E veniamo ai madrigali, perché poi ora stiamo parlando un sacco e vi vogliamo far ascoltare un po' di musica. Madrigali, allora, come dicevamo, c'è una quantità di musica enorme che viene composta sui versi dell'Orlando, perché essenzialmente veniva proprio presa l'opera dell'Orlando Furioso, venivano prese dei pezzi e ne venivano fatte delle composizioni, dei madrigali, eccetera. E quindi proprio non vi stupite se troverete dei madrigali cinquecenteschi che hanno proprio il testo paro paro preso, copia incollato, dall'Orlando Furioso. Sì, proprio veniva usato proprio così come testo, ecco, subito, fu subito utilizzato, insomma, le prime cose, quindi non dovette aspettare manco troppo, insomma, ad avere trasposizioni. No, ecco. Infatti, ora, purtroppo non se ne trova tantissimo, perché i madrigali tratti dall'Orlando, quando, insomma, a parte non viene fatto notare spesso che sono tratti dall'Orlando, perché, vabbè, come ci siamo lamentati spesso, si parla di una... cioè, effettivamente la produzione madrigalistica, in generale la musica barocca tutta, è stata schifata abbastanza nei secoli successivi, soprattutto... Nei decenni del Novecento, quindi effettivamente non è che è così facile trovare questa roba. Però c'è un'antologia molto interessante fatta dal complesso che si chiama La Compagnia del Madrigale, che come potrete intuire si occupa di madrigali essenzialmente, e che ha pubblicato un'antologia appunto di 22 madrigali scelti tra quelli pubblicati tra il 1532 e il 1580, quindi proprio a ridosso della pubblicazione dell'Orlando Furioso. Quindi era il periodo in cui i versi di Ariosto venivano proprio portati alla luce, venivano celebrati, insieme anche a quelli di Petrarca, che era probabilmente l'unico che aveva più fortuna di Ariosto in questo senso. I due più usati. Sì, poi dopo le cose un po' svanirono, non è che si poteva parlare sempre solo dell'Ariosto, e quindi vabbè, arrivarono il Tasso e Guarini. Sì, che però, scusa, cioè, no, non voglio fare sempre quella di parte, però vabbè, dai, cioè, no, vabbè, vabbè, andiamo avanti. E vabbè, è andata un po' così. Sono gusti. Le mode. Vabbè. E va bene, e tra i vari autori che vengono citati in questa antologia ci sono José del Reggio, Alessandro Striggio, Bartolomeo Tromboncino, Jacques de Vert, Orlando di Lasso, ma anche William Byrd, e vabbè, un sacco di altri, la maggior parte abbastanza sconosciuti, ma c'è anche Giovanni Pierluigi da Palestrina, insomma ce n'è diversi piuttosto famosi, di noti. E ognuno c'ha un po' il suo stile, il suo linguaggio, insomma, sono tutti un po' vari. Noi abbiamo trovato, perché veramente è difficile trovare delle registrazioni di questi madrigali, abbiamo trovato, scelto appunto da questa antologia, di Jacques de Vert, Queste non sono più lacrime, tratto dal quinto libro dei madrigali, a 5, 6 e 7 voci, del 1571, e quindi circa 60 anni dopo la pubblicazione dell'Orlando dell'Ariosto, e in particolare abbiamo detto, si parla Oddio, no, sì, in realtà non è tratto dall'antologia di cui vi parlavo prima, ma in questo caso è fatta dal complesso Les Arts Florissants e eseguita nel 2015 alla Tchaikovsky Hall di Mosca. Non vi leggo tutti gli interpreti perché sennò si fa notte, però ve la faccio ascoltare così è meglio. Dopo questo madrigale, appunto di Devert, queste non sono più lacrime, è qualcosa di un po' diverso. No, vi avverto subito che non stiamo assolutamente andando, cioè non ci stiamo preoccupando Minimamente, dell'ordine temporale proprio da delle cose. bombati così Sì, all'arrembaggio, proprio iconoclasti, cioè no, bombati che sparsi, ci frega. allora niente. E quindi vi passiamo dall'antichissimo madrigale del 1571 a Haydn, Joseph Haydn, Haydn, e con amato Orlando pazzo. Paladino. Orlando Paladino, sì. Allora, sì, l'Orlando Paladino, un'opera in tre atti, quasi tutte quelle che, forse tutte quelle che vi faremo sentire oggi sono in tre atti, effettivamente, e, rappresentata per la prima volta in un illeggibile castello in Ungheria il 6 dicembre del 1782. A Fertod? Sì, mettiamola lì. Sì, c'è un sacco di palline, accenti. Vabbè, se stava qualcuno e pagava, perché il castello di Esterhazy a Fertod, voglio vedere, sì, a dicembre, voglio vedere come ci arrivava la gente. Comunque, soldi. Sì, e libretto di Nunziato Porta, adattamento di un precedente libretto di Carlo Francesco Abadini. Insomma, vedremo che insomma sui libretti dell'Orlando Furioso si è dibattuto un bel po'. C'è, cioè, un po' di passaggi, non è proprio diretta. Sì. E invece appunto il vecchio libretto di Carlo Francesco Abadini era stato messo in musica da Pietro Guglielmi nel 1771, ma ecco, diciamo che Haydn lo sorpassa un bel po'. Sì. Si parla di dramma eroicomico perché è effettivamente un po' una tragicommedia. Questo fin dall'inizio, cioè questo fin anche, anche proprio nell'originale, un po' a parte le parti proprio tragiche, insomma, non a caso a Calvino gli piaceva, secondo me, proprio perché c'aveva questi aspetti un po' buce, un po' buffi, un po' chiaramente in senso sempre. Però sì, e qui Haydn sì, lo forma, insomma, forma il lavoro su libretti che hai citato, sul libretto che hai citato, e diciamo per fare un così, cercando di fare una breve sinossi prima dell'ascolto, il cavaliere Orlando è alla ricerca di De Angelica, appunto, che come avevamo già detto è innamorata di Medoro, non ricambia il suo amore. Attorno al paladino appunto si muovono molti personaggi, qui appunto l'elemento comico di questo scudiero pasquale che giunge giunge appunto qui dall'Africa addirittura, quindi è già diverso, geografia qui proprio complessa. Ciao, qui il Rodomonte arriverebbe dall'Africa, vabbè, in realtà appunto come si diceva nell'originale era un discendente di Ettore, un pagano, quindi teoricamente dalla Grecia, comunque va bene. Ansioso sia di combattere contro Orlando, sia di trovare anche egli Angelica, quindi insomma sono tutti sulle tracce. Il re si imbatte in un gruppo di pastori e pastorelle. Perché tema pastorale, ce sì, lo dobbiamo, ce lo dobbiamo infilare, poi Haydn, se no insomma si sentiva male. Tra cui Orilla, che lo informa della presenza di una coppia di amanti in un castello vicino, che però sono in realtà Angelica e Medoro, quindi l'altra coppia. Cioè scusami, sono Angelica e Medoro. Sì, ho fatto confusione. Perché guarda, è un casino, lo so. È come Garcia Marquez, ci sono tutti i nomi, non ci capisci niente. È un dramma. Quindi lo dissuade da affrontare Orlando, che è appunto valoroso e prode. A sua volta Rodomonte offre la propria protezione al pastore Licone contro Orlando, cioè, perché comunque Orlando appunto come sempre non è una figura solo positiva, no? Abbiamo detto, cioè è abbastanza, a seconda di chi lo incontra, in che momento lo incontra, non si sa, insomma a seconda di che medicina aveva trovato, ecco. Intanto nel castello appunto Angelica, preoccupata per il destino del suo amore per Medoro, invoca l'aiuto della Magalcina, anche questa presente anche nell'originale, e viene poi a sapere da Medoro stesso che Orlando si sta avvicinando armato di tutto punto. Rodomonte ha finalmente trovato l'avversario, ma si tratta in realtà dello scudiero pasquale, questo è l'elemento comico, no? Proprio dello scudiero che si traveste, che sfidato a singolar tensione afferma di poter combattere solo a mani nude. La buffa situazione viene risolta dall'arrivo di Orilla, che annuncia l'approssimarsi di Orlando e procura del cibo all'affamato pasquale. Nelle sue ricerche Orlando trova scritti presso una fonte i nomi di Angelica e Medoro, allora distrugge l'iscrizione, trova il tempo per accusare di codardia pasquale e infine fa prigioniere Orilla, cioè proprio ciao, che gli narra quanto sa dei due amanti. Insomma, il paladino impazzisce per amore, mentre Pasquale ed Orilla si precipitano a mettere in guardia Angelica, ma si imbattono in Rodomonte. Interviene quindi Alcina, che trasforma Orlando in insetto. E qui questo è solo l'atto 1, quindi cioè, ci siamo sdati, in senso piuttosto, cioè, si allontana parecchio. Sì, io mi chiedo veramente come facciamo a stargli dietro. Cioè, no, soprattutto perché si allontana parecchio parecchio dall'originale, a parte, diciamo che dall'originale prende i personaggi, fondamentalmente il plot di base, che sono i due. Va un po' come le serie quelle americane che pigliano dalle serie della BBC. Esatto, ecco. Fanno gli spin-off. Questo mi sembra un po' uno spin-off, a dire la verità. Sì. Perché c'entra poco l'originale. Nell'atto secondo, Rodomonte e Orlando si sfilano a duello. Vengono raggiunti da Eurilla, che annuncia loro la fuga dei due amanti. Perché, insomma, ovviamente mentre loro litigano, gli amanti se ne scappano. Orlando parte immediatamente all'inseguimento. E Medoro addirittura ha deciso di farla finita con la vita. Sì, qui si così, capisce a perché caso. Già stava scappando con Angelo. Si è sentito la pressione, niente. Prima di gettarsi in mare, affida Orilla un estremo saluto per Angelica. Era giusto per avere la scusa per fare l'aria. Sì, anche questa situazione viene turbata dall'arrivo di un guastafeste, il solito Pasquale. Questo Pasquale, insomma, che Orilla spaventa simulando la voce di Alcina. I due amanti riescono finalmente a riunirsi, quindi Medoro aveva abbandonato gli istinti suicidi, appare il terribile Orlando, vengono però salvati ancora una volta dalla maga. Orlando decide allora di vendicarsi contro quest'ultima, invia il timoroso Pasquale a fare le visite a sto Pasquale, però è un po' il factotum più che l'elemento comico. Sì, lui, comico, porino, deve reggere tutta la... Facciamo qua, l'opera. Pasquale. La maga trasforma però il paladino in pietra, poi lo tramuta nuovamente in uomo e lo porta con sé nella sua grotta magica. E anche qui mi sembra che l'abbiamo buttata completamente in caciara. Meno male che Aiden era tanto preciso, vabbè. Sì. Comunque, atto terzo, Orlando è stato condotto da Alcina sulle rive del fiume Lete perché Caronte lo immerga in quelle onde e guarisca così la sua furia. Caronte ci hanno infilato dentro tutto. Sì. Diventi così dell'amore per Angelica. Il paladino dapprima fa visita a Pasquale De Orilla in procinto di sposarsi, perché ormai che fai, poi personaggi minori. Quindi si trova a difendere Angelica e Medoro da un attacco di selvaggi. Dopo il combattimento, cui prende parte anche Rodomonte, Orlando offre i suoi servizi alla bella Angelica, libera ormai da ogni passione nei suoi riguardi. Per accrescere la gioia collettiva, Alcina trasforma il bosco in un magico giardino dove possono finalmente risuonare le lodi dell'amore. E vissero felici e contenti. Vabbè, tutto bellissimo. Io non voglio sapere Aiden che cosa comprava, insomma, le stesse medicine, perché qui mi sembra veramente una situazione un po'... Comunque... È un po' un casino, sì. Poco però... c'entra, ecco, effettivamente con l'originale, però tant'è, Aiden gli piaceva questo libretto e se lo musicò. Esatto, e noi ci ascoltiamo dall'atto primo, quindi su tutto quel casino che abbiamo sentito del primo atto, appunto dall'Orlando Paladino, dicevamo, di Joseph Haydn, Alcina, che è l'aria, una delle varie arie di Alcina, quindi la strega, la maga cattiva, poi alla insomma, fine no, ma terribile, insomma, ma insomma quella là. L'area è ad un guardo, ad un cenno solo, interpretata in questo caso da Anne-Sophie von Hotter. E sì, ce l'ascoltiamo velocemente, sono tutti brani abbastanza veloci, non vi tediamo più di tanto quest'oggi. E poi torniamo per proseguire oltre Haydn. Suave spesso Qua di nuovo su Radio Wombat, la fuga del gatto come sempre, e vi do le coordinate wombattesche perché me le ero dimenticate all'inizio e quindi vi rinfreschiamo la memoria. In particolare il nostro sito wombat.noblogs.org e la casella di posta postawombat@insiberia.net. Un saluto a tutti i wombati e le wombattesse che ci stanno ascoltando con varie forme e attraverso vari strumenti di ascolto. E proseguiamo quindi con l'Orlando sempre, questa è il leitmotiv di questa di puntata, quindi Orlando sia, e però arriviamo a Vivaldi, arriviamo appunto non in termini temporali, torniamo un po' indietro in effetti, o più o meno siamo lì, ma sì, comunque non ce ne frega niente. Non oggi niente. Antonio Vivaldi, allora Antonio Vivaldi si era, cioè allora lui dovete capire questo fatto che sull'Orlando c'aveva proprio un pallino e lui si era fissato, allora, per lui era importante, sì, sì. Era come me con Wagner, cioè ognuno ha le sue sì, poi probabilmente non lo so, magari diceva boh è facile, non lo so, non lo so, a lui gli piaceva, gli piaceva un botto e quindi ci ha lasciato un sacco di roba dedicata all'Orlando, della quale cioè fare mettere insieme i pezzi è un casino, cioè è tutto molto confuso. Ci sono almeno due opere con il nome di Orlando che fanno riferimento a Vivaldi, ma anche diverse altre versioni e rifacimenti. Quindi facciamo un po' di ordine, condivido con voi questo ordine che ho faticato veramente a trovare e ho capito queste cose. Allora, quattro opere parliamo. Sì. La numero uno, Orlando finto pazzo, si chiama così. E che comunque. Orlando finto pazzo. Del 1714. Del 1714, RV 727, che poi è quella attraverso i numeri, sono quelli attraverso i quali ci riusciamo a orientare, sì, se no sarebbe un delirio. Poi c'è l'Orlando Furioso nella prima versione, RV 84, con le musiche, attenzione, non di Vivaldi ma di Ristori, del 1713, ma poi diremo perché c'entra Vivaldi. Poi c'è un altro Orlando Furioso nella seconda versione, RV 819, musiche sempre di Ristori con però vari e numerosi rimaneggiamenti aggiunte di Vivaldi. Del 1714 sempre. E infine Orlando, che non è più furioso, Orlando e basta. Orlando basta. RV 728 del 1727, quindi diverso tempo dopo. Allora, iniziamo un po' dall'inizio, dalla prima, quindi da Orlando finto pazzo, ovvero RV 727 del 1714. L'Orlando finto pazzo è un dramma, sempre in tre atti appunto, del compositore Vivaldi. Il libretto è di Grazio Braccioli ed è tratto, attenzione, dall'Orlando innamorato del Boiardo. Ecco, quindi dal primo poema. Sì, non dell'Ariosto, ma dal Boiardo, peraltro che dicevamo prima era un incompiuto, ma esatto. Bastò evidentemente quello già per farne un buon libretto e un'opera. È la prima opera che quello che viene chiamato il Prete Rosso, ovvero Vivaldi, sì, mette in scena a Venezia, e e la seconda che invece mette in scena a Vicenza. E appunto la prima avviene al Teatro Sant'Angelo di Venezia nel 1714 a novembre. Pare che il lavoro fu abbastanza un flop, ecco. Anzi, abbastanza sicuro, andò malissimo E per salvare la stagione, Vivaldi dovette mettere in piedi in fretta e furia l'Orlando Furioso di Giovanni Alberto Ristori, quello di cui parlavamo prima. Ah, ecco perché c'era il collegamento, perché Esatto. lui lo... Cioè, quello che aveva fatto Perfetto, Vivaldi andò malissimo. sì. E Allora allora disse: lui ok, facciamo l'Orlando quello che invece ha fatto Ristori, che aveva invece avuto aveva successo. avuto successo, di cui poi parleremo un po' dopo. Per salvare essenzialmente la stagione, che altrimenti sarebbe andata malissimo. Quello di Ristori era un dramma che Vivaldi e suo padre avevano messo in scena appunto l'anno precedente nel quadro della loro gestione impresariale del Sant'Angelo. Poi dopo, appunto, lo diremo meglio, Vivaldi rielaborò quest'opera di Ristori. E poi mise in piedi le altre due versioni dell'Orlando. Ora ci ascoltiamo, giusto per mettere i puntini sulle i e mettere un po' degli stop alle cose, un primo brano, un'aria tratta da questa versione dell'Orlando, ovvero l'Orlando Finto Pazzo, la prima opera di Vivaldi sull'Orlando, RV 727, appunto, giusto per dare dei contorni. E l'aria è Se in ogni guardo. La versione è quella dell'ensemble Matthews, e viene interpretata dal nostro eroe Philippe Jaroussky, controtenore, che, come sapete, a me piace assai. Il direttore è Jean-Christophe Spinosi. Era la versione appunto dell'Orlando Finto Pazzo di Vivaldi, e citavamo prima invece la versione del 1713 con le musiche di Ristori. Per parlarvene un po' meglio, per spiegare un po' la genesi di tutto ciò, possiamo dire che nelle stagioni operistiche di autunno e carnevale, perché insomma il carnevale a Venezia era piuttosto importantino, del 1713 e 1714 e del 1714-15, quindi due stagioni sostanzialmente, il Teatro Sant'Angelo di Venezia fu gestito da Giovanni Battista Vivaldi insieme a suo figlio Antonio. La prima stagione della gestione dei due Vivaldi fu aperta dall'Orlando Furioso, quindi non l'Orlando finto pazzo che dicevamo prima, ma l'Orlando Furioso di Ristori. Era un'opera scritta appunto su appositamente su un libretto del giovane giurista Grazio Braccioli, che era all'epoca piuttosto famoso, era un librettista molto utilizzato e molto importante. L'opera ebbe un successo clamoroso che si concretizzò in una cinquantina di rappresentazioni, che penso per l'epoca fosse un mega successo. Ma in realtà parte di tale successo, ricordiamoci, siamo nel Settecento, piano barocco, le cose andavano non tanto diversamente da come vanno ora. In realtà. Diciamo che gran parte del peso lo avevano gli artisti, le star, certo, che venivano messe nel cast. Anche perché c'era proprio tutto questo gusto del virtuosismo, dell'area proprio, quindi dell'uso della voce. La gente andava proprio per vedere, no, il cantante in particolare, insomma. Eh sì, per non dire che molte volte le cose erano proprio state scritte apposta, sì. Abbiamo detto spesso, abbiamo fatto nelle nostre incursioni nella storia della musica, si è spesso detta questa cosa, sia in questo periodo ma in altri, ma in particolare in questo periodo qui. Esatto, e questa opera qua probabilmente è proprio emblematica di questo, e il successo, almeno una parte di questo successo, probabilmente fu dovuto anche alla bravura, dobbiamo dire, anche degli esecutori, che però erano anche molto famosi, insomma, e quindi venivano un po' tutti a vederli, e che furono scelti e ingaggiati dai Vivaldi con anche dei mezzucci, pare. Sì, proprio. Per assicurarsi. Sì, pare che ad esempio uno dei protagonisti, Ruggero, che era interpretato da Giovanni Battista Minnelli, era questo, cioè, appunto, l'interprete era questo giovane contraltista di belle speranze, che era stato strappato dai Vivaldi all'impresario concorrente. Grandi. Con mezzi che paiono essere stati non un po' proprio leciti. Vabbè, sì, un po' così. Non vogliamo indagare oltre. Un'altra era Maria Giusti, che era quella che interpretava Angelica, che lo stesso librettista confessò che aveva alterato per lei la psicologia del personaggio di Angelica rispetto all'originale, proprio per mettere in luce, sottolineare le caratteristiche anche di recitazione, di interpretazione di questa cantante. Quindi insomma tutto ruotava un po' su questo. A quel punto ci fu la versione, Vivaldi disse vabbè, ma io faccio la mia versione. Però, che è quella che abbiamo appena sentito. È andato così bene, visto sì, che piace. Faccio anche la mia. No, andò malissimo. Al che, come si è detto, lui rimise subito a posto la candela e rimise in scena il invece più fortunato libretto di Ristori. Sì, e a quel punto poi però ci riprovò e disse no, vabbè, che però gli era rimasta la rogna. Sì, scusa. Si incaponì e riprese però la stessa opera del Ristori, la rimaneggiò, dire brutalmente, cioè tanto, non poco, e mise in scena sempre nel 1714 la sua versione rimaneggiata, che a questo punto possiamo definire un mix tra le due, tra quella del Ristori e quella di Vivaldi. In realtà diciamo che il successo fu un po' metà, non è che andò proprio benissimo, non fu un flop, ma insomma neanche meravigliosa. E quindi vabbè, la cosa andò così, e tra l'altro un altro dei motivi per cui le cose non andarono proprio bene era che c'erano due cantanti nel frattempo di quelli famosi del Ristori che erano rimasti nella compagnia, quindi in realtà l'ensemble, insomma erano rimasti solo due di quelli sì, Le Dream Team. Sì, Dream Team era un po' mozzo e quindi era un po' zoppo e quindi la gente non ci andava più di tanto. Pare che il numero di catalogo RV819 di quest'opera è stato attribuito di recente, recentissimo, da Federico Maria Sardelli, che volevo citare. No, anche solo perché, insomma, scusate, ovviamente. Per questioni motivi campanilistiche e di omaggio al Vernacoliere. E l'ha attribuita a lui nel 2007. E tra l'altro Sardelli stesso nel 2012... al Festival di Bern ha poi diretto la prima edizione moderna, incidendo questa versione del 1714, una versione in realtà poi da lui stesso, cioè da Sardelli stesso, in parte completata secondo lo stile vivaldiani. Sì, vabbè, vivaldiano. Ci hanno messo le mani tutti, proprio, non so, passava infatti, uno per la strada, posso fare la versione? Io rimango un po' perplessa su queste su queste libertà, però c'è anche da dire che appunto in realtà non è così lontano dalla storia, perché effettivamente poi tutti facevano così, c'era uso pigliare un'opera, rimaneggiarla e ristamparla, quindi perché non lo può fare Federico Maria Sardelli? No, ci mancherebbe. Noi glielo facciamo fare, anche perché a noi non ce l'ha chiesto. No, comunque se ce lo chiedeva forse avremmo avuto un'opinione in merito. Strano, infatti, che non ci abbia consultato. Prossima volta chiamaci. Sì, Federico. E quindi ci ascoltiamo da l'Orlando Furioso di Vivaldi, RV819, se vi eravate persi, quest'aria nel profondo Giacomondo, proprio nella versione di Federico Maria Sardelli con l'orchestra Mondo Antico e con nel ruolo di Orlando Riccardo Novaro, che attenzione questa volta è un baritono, poi vedremo che è una scelta particolare, in realtà Vivaldi non aveva affatto messo un baritono, ma invece in questo sì. E quindi ascoltiamoci questa strana versione. Nel profondo c'è un mondo, si precipiti, la sorte già spietata, a questo cuore. Nel profondo c'è un mondo, si precipiti, la sorte, già spietata, a questo cuore. Già spietata, si precipiti la sorte, già spietata, a questo cuore. Vincerà l'amor più forte, con la età del calor. Vincerà l'amor più forte, con la età del valor. Mondo, si precipiti, la sorte già spietata, a questo cor. Nel profondo c'è un mondo, si precipiti, la sorte, già spietata, a questo già spietata, si precipiti la sorte. Già spietata, questo cuore. E mentre andava Vivaldi, in realtà nella versione di Sardelli ci cospargevamo di repellente per zanzare, perché sì, sarà anche arrivato l'autunno, ma alle zanzare non gliel'hanno detto. E quindi qui... e anche attraverso la pellicetta del wombat passano. Sì, gatte e wombati vengono punti. Vengono aggrediti, sì. Allora, per concludere con Vivaldi e tutti i suoi giri e versioni, sì, tutte le sue robe sull'Orlando, arriviamo all'ultima versione, ovvero la versione del 1727, quella conclusiva, che diciamo è quella un po' più riuscita probabilmente, che piglia un po' da tutto. E pare che appunto il ricordo bruciante, così alcuni critici lo definiscono, dell'insuccesso dell'Orlando Finto Pazzo e poi dell'altro rimaneggiamento un po' buttato lì dell'Orlando Furioso, devono aver tormentato a lungo Vivaldi. Il nostro. Sì, almeno questa è una delle ipotesi. Oppure c'è anche da dire che magari banalmente il tema dell'Orlando Furioso gli piaceva e voleva riuscire a darne una interpretazione che lo soddisfacesse. Tant'è che nel 1727 finalmente ebbe di nuovo un'occasione per riprendere in mano questo argomento. Pare che una delle spinte, oltre a queste che abbiamo già detto, pare che fu la disponibilità di Lucia Lancetti, che era un contralto specializzata in parti maschili. Dopo ne parleremo un po' meglio di questa questione, che è piuttosto interessante. A parte Federico Maria Sadelli, che ha messo al posto di Orlando un baritono, e vabbè, non sono solo scelte. Lui l'ha fatto, sì, però sì. Vivaldi aveva messo, cioè aveva pensato come, cioè, poi lo vedremo meglio dopo, cioè nelle parti maschili le aveva affidate molto spesso a dei contralti donne. E quindi in questo caso una interprete particolarmente famosa era un buon incentivo a Vivaldi a riprovarci. Quindi lo fece e pare che appunto questa avesse un temperamento drammatico assai eccezionale e quindi insomma si prestasse bene, a parte il fatto che era famosa, ci sono delle ragioni più maliziose. Di botteghino. Ma pare che fosse, diciamo, anche brava, poi, insomma, porina. E va bene, quindi rifece un libretto, cioè rifece fare un libretto e principalmente prese quello che Braccioli aveva composto per Ristori nel 1713, ne fece un po' di modifiche, probabilmente interventi anche suoi proprio, dello stesso Vivaldi. E alla fine di tutta la fiera il titolo venne mutato da Orlando Furioso a semplicemente Orlando, anche per fare un po' di Damoci pace anche un attimo, sì, perché non si capiva. Un po' per quello, ci sta. E quindi l'opera fu messa in scena nel mese di novembre nella stagione, proprio all'apertura della stagione del 27-28, 1727-28. E anche qui successo fu un po', diciamo, meglio del fiasco di prima, ma insomma non proprio una meraviglia. E noi vi facciamo sentire un'aria, anche qui l'ultima aria che vi facciamo ascoltare di Vivaldi, secondo me però veramente bellissima. L'aria è Solda a te, mio dolce amore, è di Ruggero. È Ruggero che in questo caso si rivolge a Bradamante. Vi ricordo Ruggero e Bradamante, la coppietta che poi ha dato origine alla stirpe. Sì, Bradamante era appunto la principessa, la guerriera, insomma. Sì, sì. Donna travestita da cavaliere. E pare che in quel momento Bradamante, ora appunto noi non vi abbiamo voluto tediare con altre sinossi e trame, veramente confuse e incasinate, ma comunque sappiate almeno che Bradamante era in quel momento andata fuori di testa pure lei, era un po' scoppiatina, e Ruggero con veramente un sacco di pazienza la tranquillizza. Anche perché Bradamante insomma aveva avuto le sue, che aveva proprio fatto vita facile, insomma, ovviamente da donna vestita da uomo, insomma, no, l'avevano fatte di nere, no, non e lì non era l'originale, gli era andata benissimo, insomma. No, e lì insomma gliela faceva un po' pagare, perché effettivamente insomma va un po' fuori di testa, e Ruggero la tranquillizza e si rivolge a lei appunto con questa aria bellissima, Solda a te mio dolce amore. La versione anche qui è di Philippe Jarouski, sempre nell'ensemble Matthews. Jarouski controtenore, come abbiamo già detto, e il direttore è sempre Jean-Christophe Spinosi. Ecco, a me questo pezzo, vi devo dire, mi piace assai. Ah, bello bello. E tagliamo i ponti con Vivaldi, basta, chiuso, capitolo chiuso, e ora arriviamo a Handel, giusto? Che esatto. Anche lui ne aveva da dire un bel po'. Sì, anche Handel è un altro che era rimasto appunto affascinato dal tema. E ora, a differenza di Vivaldi, non ci si era proprio incaponito, non ne aveva fatte. Però ne fece una versione, ora non mi ricordo la data esatta, stavo ricontrollando, e se non mi sbaglio... 1733? Esatto, grazie, 1733. Ma che memoria, guardi, sembra quasi che legga. Ma guardi, signorina, lei è veramente, veramente portentosa. Allora, sì, un'opera seria... in tre atti, scritta per il King's Theatre di Londra, quindi proprio specificatamente per il teatro, nel 1733. Il libretto in italiano fu adattato dall'Orlando di Carlo Sigismondo Capece, quindi un'altra versione ancora, che veniva dall'Orlando Furioso di Ariosto, ovviamente, però appunto anche qui ci sono due passaggi, era un libretto adattato da Capece, tratto dall'Orlando di Ariosto, che fu anche la fonte per le altre opere di Handel, Alcina e Ariodante. Sì, infatti noi non l'abbiamo presa in esame perché sennò davvero era lunga. Ma qui davvero gli spin-off. Sì, sì, è altrettanto belli, insomma, sì, mamma mia. Sì, sì, perché lui appunto prende altri due personaggi e ne fa protagonisti di altre due opere che sono però appunto rientrano nel ciclo di Orlando. Il ruolo di Orlando originariamente scritto per Senesino, il grande contraltista castrato. Sì, se ne era parlato, esatto. Non so, forse sì, vi ricorderete, quando si è fatto nella puntata sugli Emirati. Esatto. E al giorno d'oggi generalmente eseguito da un contraltista o da un mezzo soprano. Il ruolo di Medoro fu originariamente scritto per una donna contralto, cioè un mezzo soprano, e questa voce viene normalmente mantenuta nelle esecuzioni moderne. I personaggi di Dorinda ed Angelica erano eseguiti da soprani e Zoroastro da un basso, perché vediamo, ci ha infilato pure questa versione, c'è Zoroastro, sì. Che perlomeno è un basso. Sì, perlomeno, vabbè, però preso proprio tutti da, concordano. Così, ecco, veniva proprio da altro. Ecco, per farvi proprio una brevissima sinossi, qui Orlando è sempre appunto il grande soldato nell'esercito di Carlo Magno, ovviamente innamorato della principessa Angelica, e qui però è una principessa pagana, vabbè, che a sua volta è innamorato di un altro uomo, Medoro, vabbè. Orlando non riesce ad accettarlo e questo lo porta alla pazzia, gli viene impedito di causare una completa carneficina solo dal mago Zoroastro, che naturalmente riesce a farlo rinsalvire salvandolo dalla follia. Ecco, qui siamo proprio in altro, cioè non... Sì, c'è il plot principale, però insomma è proprio una roba così a sé, completamente diversa, no? E però appunto è quella da cui Handel è partito, e abbiamo già tra l'altro un ascolto di questo, se non mi sbaglio. Sì, se vogliamo si fa sentire già adesso, se no, sì, se preferisci dopo. È l'overture, sì sì, tanto questa è l'overture della, appunto, dell'opera che vi ho appena citato. Sì, e abbiamo due ascolti da questa. Dall'Orlando di Handel, l'overture, e poi dopo invece che ci parlerai un po' meglio di tutto il resto, sì, facciamo sentire anche intanto un'altra aria. Intanto sentiamo l'overture. Sì, l'overture in questo caso è di nuovo il complesso Les Arts Florissants e William Christie nel particolare che interpreta, cioè che dirige. E quindi niente, ascoltiamoci l'overture. Thank you. le bellissime ouverture di questa Handel. Andava messa nella ce la siamo scordata nella puntata sulle ouverture. È vero, potremmo farne altre. Ne faremo altre. Ouverture parte 2. Sì, vi toccheranno. Quindi proseguiamo, sì, con Handel. Handel aveva, appunto, anche lui ha sviscerato un bel po' la questione dell'Orlando, insomma, non è che se ne l'ha buttata lì. No, non come Vivaldi, però gli piaceva, insomma, gli interessava, evidentemente. Appunto, abbiamo detto che anche gli spin-off sulle, sì, opere, su questi personaggi, tra virgolette, minori. E quindi lui, diciamo... così, all'inizio del Settecento fu uno dei primi a mutuare un po' dall'opera italiana, a trasportarla a Londra, dopo vari girovagare, vari tour, no? Tipici degli intellettuali in Europa. Si era appunto stabilito a Londra e qui aveva, attraverso la sua opera Rinaldo, Il famosissimo Rinaldo. Rinaldo aveva appunto portato questo stile, appunto, dell'opera italiana. Sì, lui aveva portato proprio la moda, cioè, sì, tant'è che poi, insomma, lo stile italiano, stile italiano, capisci? Sembrava proprio Gucci. Esatto. No, però effettivamente lo stile belcantistico, questa cosa qua aveva sfondato. Sì, appunto, perché lui la trasportò e provocò così una mania proprio a Londra per l'opera seria italiana. Chiaramente non si sta ancora parlando di quella che si intende noi, no? Sì, no. Quella di Verdi e di Puccini. Chiaramente si sta parlando ancora di questo periodo, proprio all'inizio del Settecento. Che comunque era un momento in cui, se volevi andare a studiare canto, andare però, in Italia. Sì, perché però, appunto, in maniera diversa, però aveva comunque l'Italia come base, come eccellenza, insomma, della tecnica. Quindi... una forma concentrata prevalentemente sulle arie solistiche per le star, quello che si diceva prima, no? Scritti proprio di questi virtuosi del bel canto, per cui a un certo punto i ruoli erano proprio scritti ad hoc per loro. Abbiamo parlato tante volte e insomma, abbiamo raccontato anche facendo proprio i nomi. Orlando, un'opera italiana di Handel con un ruolo da protagonista per Senesino, appunto, ed era originariamente prevista, diciamo, il suo debutto era previsto per il gennaio del 1733, ma fu messo un annuncio dalla stampa di Londra e l'apertura era stata posticipata poiché il principale interprete era indisposto, quindi sì, si capisce quanto era legato proprio a... Sì, tra l'altro ora in realtà le alterni battibecchi tra Handel, che comunque c'aveva un caratterino, ricordiamocelo, e non gliele mandava a dire, e i suoi pupilli, cioè i suoi che poi gran parte erano i virati, comunque, insomma, i cantanti protagonisti, cioè questi battibecchi continui poi influivano un sacco sulle messe in scena, tant'è che l'Orlando ebbe un buonissimo successo, ma a un certo punto venne finì di essere messo in replica perché Senesino se ne andò e decise di non partecipare più, perché era essenzialmente, sentiva di essere stato messo un po' in secondo piano perché non c'erano abbastanza arie che lo mettessero in risalto, sì, quindi, per dire, cioè, un po' tutto ruotava intorno a queste prime donne. Esatto, e dobbiamo ricordare appunto che era fondamentale anche proprio in termini di vendita, proprio meramente commerciali, questo, perché chiaramente il pubblico aveva, no, i suoi beniamini, erano proprio delle star. Dovete pensare che all'epoca, soprattutto in un periodo come quel, teatro era fondante, insomma, era l'espressione poi maggiore della vita culturale, quindi ovviamente... pensare che questi erano proprio come delle rock star, cioè come per noi possono essere. Quindi di questa opera abbiamo una testimonianza, appunto, una recensione, se vogliamo, di questo avvocato politico scozzese Sir John Clerk, che era anche musicologo e compositore, che, assistendo all'Orlando in tutte le tutte le rappresentazioni degli 11 spettacoli, fan. Proprio un fan pazzo, cioè peggio di me, andava a rivederlo 200 volte, disse che non aveva mai visto appunto né sentito un migliore pezzo di musica né un'esecuzione migliore, per il famoso castrato senesino ha cantato il ruolo principale, il resto erano tutti gli italiani che hanno cantato con molta buona grazia, vabbè, andiamogli bene, e azione, tuttavia il pubblico era però poco numeroso, dice lui, no? In modo che io credo che non abbiano guadagnato abbastanza per pagare i suonatori dell'orchestra, cioè proprio a rimessa. E ha fatto i conti in tasca. Però. Lui proprio era preciso, avvocato comunque. Sono stato sorpreso di vedere il numero di maestri di strumenti, e qui fa una lista, no? Dicendo c'erano due clavicembali, due grandi violini bassi, ciascuno di 7 piedi, insomma addirittura da avvocato, scozzese poi insomma ovviamente, braccino corto, insomma ci aveva fatto subito caso che non era andata benissimo, ecco. E quindi ci fa capire questa testimonianza che non ebbe, ecco, subito una grande partenza, insomma. Questa velocità che poi è rimasta, però invece una delle, insomma, sì, un capolavoro è considerato adesso, quantomeno più famose, esatto. E l'Orlando appunto in questa versione mostra una grande flessibilità, una diversità nelle forme musicali e diciamo si allontana dalla convenzione dell'opera seria, no? Che c'è un'aria a capo, poi un'altra aria che poi verrà ripresa nell'Ottocento, che Wagner distruggerà con la sua spada di fuoco, distruggerà tutto questo, ma insomma finché Wagner non ce l'ha distrutto questa, e comunque tuttora c'è, perché in Italia è così, quindi questa cosa di avere le arie appunto, no? Famose una seguita all'altra e il resto mancia, e invece ci sono qui a diverse aree più brevi senza ripetizione della sezione, nonché una delle scene più straordinarie dell'opera barocca, che è quella della follia. Sì, quella è una scena proprio che tutti ricordano, che effettivamente è importantissima, che per il personaggio principale termina appunto il secondo atto, un mix di arioso e arie, ritmi irregolari, un rondò che diventa sempre più maniacale, no? Proprio per metafora alla mente del protagonista che appunto si sta dissolvendo, sta perdendo il senno. Sì, in realtà questa cosa qua è una cosa tipica di Handel, di riuscire attraverso la musica e solo la musica, senza le parole, a rendere perfettamente un quadro. In questo devo dire era effettivamente straordinario, un po' come lo era molto prima di lui Purcell, ma vabbè, cosa che io ammiro moltissimo nel barocco, però questa scena effettivamente in particolare non era affatto facile, e questo anche azzardato mix di varie tipologie diverse di musica non era una cosa usuale, non era un ascolto facile per l'epoca, quindi insomma era azzardato e ardito da vari punti di vista. Poi sì, in realtà appunto più o meno le cose da dirvi su Handel sono finite, ma la cosa che ci siamo lasciati per dolce finale è analizzare un pochino le scelte che potremmo definire di genere dell'epoca, che tra l'altro noi l'abbiamo messa in fondo riferita a Handel, però stessa cosa potrebbe valere per Vivaldi poi effettivamente. Addirittura in Haydn c'era un riferimento ai castrati, nonostante poi non ci fossero ruoli specificatamente pensati per i castrati, ma c'era a un certo punto un'aria in cui un contralto maschile si vantava proprio nel testo stesso di cantare meglio, come meglio di un castrato, quindi insomma la meta discussione, diciamo. Ed è piuttosto interessante vedere questa cosa, che effettivamente le scelte di genere dell'epoca erano quantomeno azzardate, ma anche per adesso i ruoli eroici tipicamente maschili, per esempio, che nell'Ottocento poi vengono affidati ai tenori o ai baritoni, venivano dati ai castrati. L'emblema eroico dell'uomo guerriero in aveva questo invece caso. Qui una voce femminile, esatto, ovviamente femminile e fatta da un castrato, quindi insomma doppiamente ambigua, ma forse neanche ambigua, proprio precisa, diciamo. Ad esempio, sempre restando sull'esempio di Orlando, Medoro, che è il secondo ruolo maschile, anch'esso eroe, ma ricordiamocelo, capostipite della casata d'Este, cioè a lui viene affidato la marchetta che doveva glorificare la stirpe degli Este. Questo ruolo di Medoro era scritto non per un castrato questa volta, ma per una donna, per un contralto. Quindi si gioca molto sui ruoli maschile e femminile, che sono assolutamente non quelli canonici a cui siamo abituati adesso. Tra l'altro è interessante anche guardare come ci si è comportati invece quando i castrati non esistevano più, in tempi più moderni, e si doveva scegliere come sostituirli. Questa cosa ne abbiamo già parlato abbondantemente appunto nella puntata dedicata proprio agli evirati cantori, ma anche qui dentro Orlando è assolutamente interessante ribadirlo. Fino a pochi decenni fa troverete i ruoli eroici per evirato sostituiti brutalmente con i baritoni, che tra l'altro appunto finalmente si rimette a posto le cose, allora. L'uomo fa l'uomo, la donna fa la donna, e i risultati sono disastrosi. Chiaro. Sia sullo spirito dell'opera, ma anche sull'intera struttura musicale, perché un brano se io scrivo una parte con che deve essere eseguita da una voce che ha un certo tono, se te mi metti un altro tono completamente per esigenze di genere, di farlo poi apparire magari abbassandolo di tonalità, cambia, ovviamente cambia il cantato, cambia, quindi cambia anche il rapporto con le note poi, anche no? Perché Handel era un attentissimo studioso della voce umana, e quindi insomma le sue partiture erano scritte con una cura e un dettaglio, un'attenzione importantissima, proprio cucita addosso al ruolo, cioè alla specifica voce che la doveva interpretare. Questo è tipico anche del è tipico del Settecento, si è detto tante volte, di una capacità, di una modernità veramente nella gestione dei ruoli, non che ovviamente il problema di genere nel Settecento fosse risolto, anzi, però paradossalmente proprio perché credo sia collegato anche a questo, ovviamente, cioè il fatto che la figura maschile fosse molto femminilizzata. Sì, molto androgina. Molto androgina, molto femminilizzata, il che, ripeto, non significa poi nella realtà meno virile, però appunto questa capacità, se non altro estetica, no? Si pensa proprio a tutto, nella moda, nell'arte, no? nella rappresentazione di sé. Il Settecento è stato proprio il secolo in cui, non a caso poi di una certa approccio alla sessualità, no? E nasce il romanzo erotico, piuttosto che insomma pensiamo a tutto quello che si conosce. Ecco, interessante vedere come questo anche nella musica, no? Non c'era la paura di non sembrare abbastanza anche perché gli evirati paradossalmente erano proprio le star amate, esatto, da tutte le donne, cioè quindi, le donne quelli volevano, l'ideale maschile era paradossalmente, esatto, un evirato. E quindi appunto è proprio il secolo in cui questo si può, paradossalmente è dopo che si fa un passo indietro e che invece, no, con l'Ottocento e poi con tutta l'opera c'ha queste figure maschili proprio forti e coi totalmente baffi. Maschili appunto, coi baffi. Per cui, e probabilmente in questo caso, essendo che l'Orlando già nel testo presenta delle figure femminili importanti un po' per la prima volta, si presta a maggior ragione, no? E che anche i ruoli maschili non sono poi così definiti dalla virilità e basta, e quindi insomma è interessante forse proprio questo connubio, non a caso forse l'Orlando anche piacque così, proprio per la capacità di ospitare, no, questa... Sì, questa ambivalenza, sì. E questa complessità. Più di recente, in realtà, di pari passo con un certo rigore filologico. Oltre a, che poi vogliamo ricordare che poi venivano devastate le opere barocche, non soltanto in questo, ma anche in mille altri aspetti. Quindi, di pari passo, mentre si cercava di recuperare quello che era lo spirito originario dell'opera, si è cercato di recuperare anche questa attenzione ai generi e a questa ambivalenza, appunto. Quindi più di recente, ad esempio, gli eroi maschili vengono interpretati da donne contralto e i ruoli femminili affidati a uomini controtenori. Questa è un po' il tipico schema, ad esempio, dell'Orlando, sia in Vivaldi che in Handel. Quindi le moderne, cioè le interpretazioni contemporanee che troverete, diciamo dal 2000 in poi, più o meno riflettono tutto questo schema, e secondo me sono, le rendono molto interessanti, anche perché ci sono delle voci, al di là delle voci del controtenore, che, di cui vi abbiamo già abbondantemente parlato, ma anche le voci maschili, scusate, femminili del contralti, hanno una complessità e un timbro, una ambiguità, una meraviglia dentro, che molto spesso non nel repertorio quello più belcantistico dell'ottocentesco non vengono sfruttate abbastanza, non vengono portate fuori. Quindi insomma è molto interessante secondo me dare spazio a questo tipo di vocalità. Quindi basta, vi lasciamo con l'ultimo estratto da Handel, dall'Orlando di Handel, in questo caso un'aria interpretata appunto da una donna, da Sandrine Piau, però non è nel ruolo di Angelica, è un ruolo minore dove la donna faceva la donna effettivamente, e l'aria è Verdi Allori. E, sì, vogliamo fare un inciso, sì, se vogliamo giusto. Fare un inciso teatrale, insomma, che esce dall'opera. Sì, anche così. Per riallacciarci un po' alla modernità più degli ultimi decenni. Perché poi ora si torna comunque un po' indietro, però togliendo le opere insomma musicali, l'Orlando è stato chiaramente ripreso al teatro in mille forme. Una delle più famose in Italia è quella di Ronconi del 69, su testo tratto dall'Orlando, su testo di Sanguinetti, quindi insomma... Ecco, e rimane, è rimasto appunto del 69, è rimasta celeberrima proprio per questa messa in scena che poi ha fatto scuola, insomma, tra i ronconiani e non. Ci fu poi anche uno sceneggiato televisivo, mi sembra sempre curato da Ronconi, e, che ha poi tratto dall'Orlando anche... Un altro lavoro sul personaggio di Astolfo, che è poi un personaggio chiave perché è quello che gli va a recuperare il senno sulla luna. Eh sì, non l'abbiamo citato, ma... Che l'ippogrifo e che gli recupera poi il senno. Anche Astolfo era un personaggio che Ariosto aveva ripreso dalle cronache crociate, è un personaggio che fa questa discesa agli inferi e appunto poi con l'ippogrifo va in paradiso, trova San Giovanni e gli dice no, guarda, il senno di Orlando è sulla luna, lui glielo recupera e quindi mette fine alla guerra, perché poi recuperando il senno Orlando ritorna a essere un cavaliere e quindi insomma fondamentalmente il Deus Machina Astolfo. Però insomma ecco, Ronconi fece questa versione che è poi citata, stracitata, rieditata, però insomma del 69, che rimane appunto così pietra miliare del teatro all'epoca, contemporaneo, ormai vecchio, però insomma, ecco, però insomma, e questa è una delle varie, ecco, sì, sì, ma poi ce ne sarebbero miliardi, sì, di ancora di cose da citare, ma insomma il nostro tempo è agli sgoccioli. E quindi non lo so, se non hai nient'altro di... No, forse qualche... forse anche nella pittura... Non forse, sicuramente, nella pittura ci sono un sacco di esempi. E, vabbè. Sì, Duret, quello che fece anche le... insomma, un illustratore francese famoso, ci sono queste immagini appunto dell'ippogrifo che vola sulla luna. Sì, è vero. Famosissime. O delle reminiscenze. Di Duret, che è lo stesso che fece poi le illustrazioni per la Divina Commedia, quelle tutte a tratto, sul bianco e nero, se non mi sbaglio. Anche lui ne fece un albo tutto sull'Orlando, vabbè, chiaro, ovvio. Però insomma, ci sono mille, chiaramente, come tutte le opere... Vabbè, fondanti, sì, anche no? Nel cinema, vabbè, ma lì apriremo uno scrigno. Sì, niente. Quindi niente, vi lasciamo all'ascolto di Sandrine Piau, che interpreta l'aria tratta Verdi Piante, tratta dall'Orlando di Handel. E con questo vi salutiamo e ci risentiamo domenica prossima, sempre intorno alle 18, sempre ai microfoni di Radio Wombat. E vi auguriamo una buona continuazione di domenica e alla prossima settimana. Ciao ciao a tutti. Ciao.